Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera e benvenuti a Focus Economia, nuova puntata quella di oggi, 349-238-6666 e come sempre il numero per intervenire in diretta via SMS, se volete mi trovate anche su Twitter, Simone Spezia, continuo a non avere contatto con la pagina Facebook di Focus Economia e quindi eventualmente vi leggerò dopo. I temi di oggi. Allora, innanzitutto partiamo da questa questione degli acronimi. Ogni volta che salta fuori dalla mente del legislatore fiscale un nuovo acronimo, io tendo a preoccuparmi, in tutta sincerità. È successo già altre volte in passato che al sorgere di un nuovo acronimo, di una nuova sigla che indicasse una nuova tassa e che andava a sostituire tasse precedenti, poi in realtà la tassa invece che diminuire aumentasse. Ebbene, dai calcoli che ha fatto oggi il Sole 24 Ore, pare che sia proprio così per quanto riguarda il TASI, il tributo sui servizi indivisibili comunali, che dovrebbe sostanzialmente accorpare IMU prima casa e TARES. Insomma, le proiezioni che fa il Sole 24 Ore, ne parleremo, scenderemo nel dettaglio, non sono esattamente positive per i contribuenti. Quindi questo è quello che ci aspetta al momento, salvo modifiche di questa legge di stabilità che naturalmente arriva alla prova del Senato. Già in commissione sono più di 180 emendamenti, figuriamoci che cosa succederà successivamente. Come al solito finiremo, presumiamo, con un maxi emendamento che tiene dentro tutto e fiducia sul maxi emendamento. Vedremo se sarà effettivamente così. Parleremo di due casi che riguardano i produttori di automobili europei. Innanzitutto uno riguarda Fiat. Perché? Perché secondo alcune indiscrezioni di stampa, VEBA, che è il Fondo Sanitario dei Lavoratori Americani del Settore Auto, avrebbe fretta di chiudere la cessione del 41,5% di Chrysler a Fiat. E perché? Perché avrebbe un buco di 3 miliardi di dollari. Questa è una delle notizie, ma forse quella più interessante in realtà che sta arrivando in queste ore arriva dalla Francia, dove nella vicenda Peugeot i sindacati hanno dato il via libera, larga maggioranza, 4 dei 6 maggiori sindacati, che rappresentano quasi il 65% della forza lavoro, ad un accordo sindacale, vista la grande crisi attraversata dal gruppo Peugeot Citroën, che prevede il congelamento delle retribuzioni per l'anno prossimo, maggiore flessibilità e mobilità del personale. In tutto ciò, dentro il gruppo potrebbe entrare lo Stato francese e potrebbe entrare un gruppo cinese. A proposito di ingresso di soggetti statali, per così dire, europei all'interno di gruppi privati. Allora, come sapete, questa pratica è a rischio di essere considerata aiuti di Stato da parte dell'Unione Europea. Ebbene, come sapete, la vicenda all'Italia è sub iudice dell'Unione Europea proprio perché ci sono questi 75 milioni di euro con i quali Poste Italiane partecipa all'aumento di capitale di Alitalia. Oggi British Airways ha fatto sentire fortemente la sua voce su questo tema, ha fatto sapere che potrebbe adire a vie legali, sta valutando almeno se ricorrere alle vie legali su questo tema, e nel frattempo non sappiamo che cosa succederà che cosa deciderà di fare Air France, che per ora, come vi abbiamo già raccontato ieri, si è limitata ad un no comment sull'ipotesi di partecipazione o meno all'aumento di capitale, potrebbe quindi diluire la sua quota. Questi i temi che tratteremo nella giornata di oggi. Per quanto riguarda i mercati, da segnalare che la giornata è positiva, E è positiva a maggior ragione da quando sono arrivati i dati sulla disoccupazione americana, che non sono buoni come ci si aspettava, perché il numero di posti di lavoro creati è stato di 148.000 unità, meno delle stime degli analisti che parlavano di 180.000. C'è una discesa della disoccupazione, ma il dato negativo fa pensare a questo punto che si possa allontanare il cosiddetto tapering, ossia la diminuzione graduale degli stimoli che sta dando la Fed all'economia tramite l'acquisto di titoli di Stato e di obbligazioni garantite da mutui immobiliari. Quindi parleremo anche di mercati, un aggiornamento breve adesso: FTSE MIB più 0,61%, FTSE All Share altrettanto, va bene anche il resto d'Europa: Parigi più 0,33%, Francoforte più 0,86%, bene anche l'America più 0,34%, e lo Standard & Poor's 500 più 0,34%, il Dow Jones più 0,32%, lo Standard & Poor's 500. Questi temi partiremo in questa prima parte. Tenetevi pronti e caldi su quanto ci costa questo benedetto TASI, il tributo sui servizi indivisibili. Prima di tutto, come sempre, le notizie in breve di oggi. Come sempre partiamo dalle materie prime, il petrolio innanzitutto. WTI con consegna a novembre in calo dello 0,83% a $99.97 al barile, il Brent invece in lieve rialzo a $110.33 al barile. Il dato sulla disoccupazione americana, del quale vi parlavamo, scese al 7,2% a settembre dal 7,3% di agosto, oltre le attese. Questo è il dato appunto del Dipartimento del Lavoro americano. Posti di lavoro creati 148.000 contro i 180.000 che si attendevano gli analisti. E la Casa Bianca che dice che la disoccupazione sta calando, ma abbiamo bisogno di una maggiore crescita dell'occupazione nel settore privato. E però aggiunge il consigliere economico alla Casa Bianca, Jason Furman, che gli effetti dello shutdown si faranno sentire sull'economia e sull'occupazione. Potrebbero arrivare, almeno stando a quanto scrive Bloomberg, dei requisiti più rigidi per le banche europee. La BCE avrebbe intenzione di fissare per gli istituti più grandi un rapporto fra capitale e attivi pari ad almeno l'8%, anticipando una normativa che sarebbe dovuta entrare pienamente in rigore nel 2019. E si parla del prossimo anno. Ancora l'Europa. Interessante quello che ha deciso di fare Bill Gates, che ha acquistato il 6% del capitale del gruppo spagnolo Fomento de Construcciones y Contratas per 113,54 milioni di euro, diventando così il secondo azionista della compagnia dopo Esther Koplowitz, che conserva il 53,9% del capitale. Hanno detto che l'ingresso di Gates è a lungo termine. Secondo Juan Bejar, che è vicepresidente e consigliere delegato, questo potrebbe essere solo il primo pacchetto, perché Bill Gates avrebbe scelto la Spagna perché è un paese per lui attraente in termini generali. E quindi scommette sul settore immobiliare spagnolo, quello che poi ha innescato la stessa crisi spagnola. Del resto, ieri vi abbiamo riferito come stanno incrementando progressivamente, continuamente, gli acquisti da parte di stranieri di immobili in Spagna. Forse il mercato da quelle parti sta ripartendo. È positivo intanto il quinto rapporto della Task Force europea per la Grecia. Cioè sono gli esperti inviati da Bruxelles ad Atene per aiutare il governo ad assorbire i fondi strutturali. Che è questa altra questione, forse di una task force così ne avremo bisogno anche noi. E a rimettere ordine nei progetti già in cantiere. Ma magari non europea, non lo dico perché sennò qua arrivano messaggi, roba sui social network, mi invadete. Magari non una task force europea, però una task force fatta bene che ci aiuti da questo punto di vista. E dice questa task force sulla Grecia: vediamo segni incoraggianti di stabilità economica, ci aspettiamo il ritorno alla crescita nel 2013. Assorbimento dei fondi europei sensibilmente migliorato. Ancora l'Europa. International Airlines Group, che forse non vi dirà niente, ma se vi dico che il gruppo che ha dentro Iberia e British Airways vi dice qualcosa di più, sta valutando di ricorrere alle vie legali sul caso all'Italia per opporsi all'intervento del governo italiano per salvare la società, insomma l'intervento di Poste Italiane, diciamo. Lo considerano un palese aiuto di Stato. L'annuncio è arrivato addirittura dall'amministratore delegato del gruppo, Willie Walsh, a Londra. Ci sono anche dei dati, poi entreremo nel dettaglio quando parleremo di borsa su questo rapporto di Mediobanca. A guardare le quotazioni, dice il Ricerche e Studi di Mediobanca, le banche e le assicurazioni italiane sono ampiamente scalabili in borsa. Il rapporto tra prezzo di borsa e capitale netto è esattamente in pari, un livello molto attaccabile, dice Mediobanca, considerando che quello di tutti gli altri titoli è a quota 2. Impressionante veramente il dato sulla capitalizzazione. Ci ricorda Mediobanca, nel 2007 le banche a Piazza Affari totalizzavano 214 miliardi di euro, adesso siamo a quota 61 miliardi. Abbiamo parlato di banche, vogliamo farvi sentire quello che forse è un po' l'audio del giorno. Da questo punto di vista, il tema sono i contratti che vuole fare l'ABI, che vuole fare l'Associazione Bancaria Italiana, superando il contratto nazionale, il passaggio ai contratti aziendali. Allora, l'audio arriva dal FABI, che è il sindacato dei bancari. La voce che sentirete adesso è di Lando Maria Sileoni, che sul sito del sindacato, c'è una TV, si chiama Fabi TV, appare con una pistola in mano. Sentite qua. Care colleghe e cari colleghi, questa è una pistola giocattolo, ma è come se fosse vera, perché i rappresentanti delle banche il 16 settembre ce l'hanno puntata alla tempia, ed è come se l'avessero puntata contro tutti i lavoratori dicendoci: o rinnovate il contratto alle nostre condizioni o la categoria rimarrà senza un contratto. A un ricatto del genere non potevamo rispondere che con lo sciopero del 31 ottobre. Scioperiamo per la nostra sopravvivenza, perché senza un contratto nazionale... Cosa è successo? Il 16 settembre appunto l'ABI ha formalizzato la disdetta anticipata del contratto nazionale dei bancari, la cui scadenza sarebbe stata giugno 2014. Motivazione la crisi e l'aumento delle sofferenze. Parliamo anche di RC Auto, di assicurazioni auto meglio, che entro 2 anni il contrassegno elettronico appunto dell'RC Auto sostituirà quello cartaceo attualmente in vigore. E meno male, abbiamo parlato di agenda digitale ieri, almeno questo. E potrà incidere significativamente anche sui costi della polizza, lo dice il presidente dell'ANIA Aldo Minucci, intervistato da Deborah Rosciani a margine dell'annual sulle assicurazioni organizzato dal Sole 24 Ore. Siamo fortemente consapevoli del problema del costo delle coperture RC auto nel nostro paese, in difformità rispetto ad altri paesi della comunità europea importanti. Sappiamo bene che questo meccanismo non è il frutto della volontà malevola del settore, ma dal fatto che ci sono situazioni profondamente diverse. Tra le situazioni profondamente diverse che penalizzano il sistema Italia c'è quello per cui c'è una fortissima incidenza di sottrazione all'obbligo di copertura assicurativa. Facilitato da cosa? facilitato dal fatto che il contrassegno e l'attestato di rischio sono fenomeni cartacei che vengono distribuiti, facilmente falsificabili e via di seguito. Allora abbiamo pensato che l'unico elemento per incidere e risolvere alla radice questo tipo di problema è fare in modo che all'elemento cartaceo sia sostituito un qualcosa che con un chip possa essere rilevato in tutte le occasioni. Quando noi facciamo il contrassegno cosiddetto, ma non è un contrassegno, elettronico, questo cosa comporterà? Che ogni qualvolta una macchina passa attraverso la ZTL delle città o in autostrada e viene segnalato, immediatamente è capace di riscontrare se quella macchina, con un aggancio al sistema delle registrazioni delle coperture assicurative esistenti, se quella macchina è coperta o non è coperta dall'assicurazione. È evidente, per fare questo dobbiamo mettere in piedi un meccanismo, si sono dati circa ormai 2 anni, 1 anno e mezzo di tempo per poterlo attuare. Quando verrà attuato sarà finalmente risolto questo problema, che se diciamo che possa toccare dai 3 milioni in su di autoveicoli incide significativamente. A chiudere questa parte di notizie in breve, anche se non è proprio una notizia, ieri la nostra Roberta Giordano in effetto notte ha sentito Angelo Pisani, l'avvocato di Diego Armando Maradona, dopo tutte le polemiche, Fassina che gli dà del miserabile, lui che fa il gesto dell'ombrello. Qualcuno scriveva oggi su Twitter: per par condicio, per preservare l'equilibrio, adesso anche Pelé deve venire nella televisione italiana a fare il gesto dell'ombrello. Vediamo un po'. Sentiamo l'avvocato Angelo Pisani di Maradona. Allora, se Letta o qualcuno per lui ha intenzione di capire e di valutare la questione in maniera trasparente, siamo disposti in ogni momento a venire in Italia, a presentarci, a sederci a un tavolo, e se siamo noi quelli che hanno torto, anche ad ammettere il torto. Però vorremmo che, se noi dimostriamo carte alla mano che non è mai esistita la violazione fiscale, qualcuno ammettesse che per tanti anni si è fatto un errore e si è strumentalizzato il nome di Diego Armando Maradona. Una volta tanto l'Italia farebbe una bella figura e la giustizia trionferebbe, perché io penso che quando lo Stato si confronta con il cittadino e si chiariscono degli equivoci, vince la società, vince la collettività, vince la legge. Eccoci qua a parlare di fisco, quindi nessuno meglio che l'avvocato di Maradona poteva introdurci a questo argomento. Salvatore Padura del Sole 24 Ore, benvenuto. Buonasera. Bentornato nei nostri studi. Prima di partire con questa tasi, che so già che farà imbestialire i nostri ascoltatori, che da settimane, soprattutto i veneti, ma oggi uno addirittura anche da Bari, ci scrive: paga e tasi, che vuol dire paga e stai zitto in Veneto sostanzialmente. Però una domandina su Maradona, insomma, te la devo fare, perché dice l'avvocato che è stata commessa un'ingiustizia. Ma volevo dire che Pelé innanzitutto non ha 40 milioni di debito con il fisco italiano, quindi dubbio, diciamo avrebbe qualche per motivo per l'equilibrio calcistico, diciamo. Calcistico, senz'altro. No, effettivamente devo dire che la vicenda di Maradona è davvero molto molto complessa, perché diciamo rientra in un contesto di notifiche mai arrivate oppure insomma non viste, eccetera. E bisogna anche ricordare che diciamo alcuni suoi compagni di squadra dell'epoca sono stati assolti per fatti analoghi. Con Maradona evidentemente ci sono stati problemi anche legati alle notifiche di questi provvedimenti, però insomma in qualche modo adesso il procedimento si è concluso. Io insomma proprio stamattina qui da voi alla radio ho fatto una cosina, insomma, per dire che a me piace ricordarlo per altre gesta che che abbiamo visto su quello in televisione, anche perché alla fine poi mi è sembrato un gesto non tanto indirizzato o non solo indirizzato al nostro fisco, ma un po' diciamo a tutti i contribuenti che invece le tasse le pagano e le devono sempre pagare, ecco. questo. Allora, fin qui Maradona, veniamo alle tasse che dovremo sicuramente pagare, o quasi. Allora, noi partiamo parlando di questo TASI, questo tributo sui servizi indivisibili, sapendo, secondo me, che alla fine, Salvatore, conoscendo come funzionano i meccanismi parlamentari, qualche bella modifica verrà piantata, probabilmente a saldi, pur a saldi invariati, i famosi saldi invariati, però qualche modifica la pianteranno. Che dici? Sì, io penso di sì, anche perché mi sembra che in questa fase il governo stia sostenendo un esito finale di questa operazione, cioè l'invarianza di gettito per tutti i contribuenti, soprattutto per i contribuenti proprietari di abitazione principale, di prima casa, che è, almeno a quanto risulta dagli esempi che insomma in questi giorni stiamo pubblicando numerosi sul giornale, e non c'è. Quindi la sensazione comprovata dai numeri è che nel 2014 questo nuovo tributo, che in realtà si chiamerà TRISE e che avrà al suo interno due sottotributi che si chiamano TARI e TASI, quindi una componente rifiuti e una componente servizi indivisibili, quindi siamo al massimo della complicazione possibile e immaginabili, tenda ad essere un po' più pesante di quello che si è pagato nel 2013, cioè quest'anno, quando evidentemente non si è pagata e speriamo non si pagherà neanche la prima rata e non si pagherà la seconda rata dell'IMU, ma in realtà tende a essere anche un po' più pesante rispetto al primo anno dell'IMU, cioè il 2012. Quindi è chiaro che, e questo considerando di applicare questo tributo TASI ad aliquota minima, cioè 0,1 per mille, mentre sappiamo che i sindaci avranno la facoltà di portare questo livello al 2,5 per mille, quindi di più che raddoppiarlo. E se conosciamo i sindaci in genere? Se conosciamo i sindaci, non è che lo tengono. No, diciamo, se conosciamo i sindaci, e li conosciamo, e se conosciamo le condizioni dei bilanci dei comuni, sappiamo che la tendenza sarà senz'altro quella di andare al rialzo. Ti interrompo un attimo, perché adesso abbiamo una pausa e poi torniamo a parlarne dopo, perché insomma voi avete fatto anche qualche proiezione appunto su questo nuovo tributo, e voglio capire, la dico brutale, quanto ci smazziamo. A tra un attimo. Focus Economia. Facciamo un po' di conti dunque, facciamo un po' di conti su questo TRISE. Con dentro TASI e TARI. Forse quando finiremo gli acronimi finiremo le tasse, chissà mai. Allora, Salvatore Padula, veniamo ai numeri davvero, perché oggi il grafico che avete fatto secondo me è chiarissimo, e voglio parlare, per adesso almeno, di una sola cosa, ossia la prima casa, perché è su quella che si è giocata tutta la battaglia politica anche interna alla maggioranza, ossia l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Noi scopriamo adesso, guardando queste vostre proiezioni, che in realtà, anzi, abitazione principale, scusate, la definizione corretta è abitazione principale, che in realtà sull'abitazione principale finiremo a pagare di più. È così. È così, perché ovviamente noi, voglio dire, dobbiamo ragionare in questi termini. Nel 2013 la prima rata dell'IMU è stata soppressa, la seconda rata immaginiamo, insomma ipotizziamo, che sarà soppressa a breve con un provvedimento del governo, che tra l'altro dovrà trovare 2,4 miliardi di copertura. È sperabile, perché se lasciano pure la seconda rata. Diciamo, il totale delle imposte sulla casa in termini di IMU, TARES e per il 2013 anche quella maggiorazione della TARES Suarez di 30 centesimi al metro quadro, che sarà in vigore solo per il 2013, è inferiore alla somma di quanto si pagherà nel 2014 tra Tari e Tasi, ripeto, considerando la Tasi, cioè la tassa sui servizi, ad aliquota minima, cioè senza ipotizzare che invece e senza immaginare che i sindaci agiranno molto su questa aliquota e tenderanno ad elevarla. Allora, è chiaro che non si tratta di, come dire, di importi stratosferici, però insomma, per un trilocale di 100 metri quadrati con valore catastale di 100.000 euro, tanto insomma, per fare un esempio, c'è una differenza di 70 euro in più che pagheremo nel 2014 rispetto al 2013, 415 contro 345 euro. Quindi insomma, questi sono i numeri. Ovviamente cifre che si moltiplicano nel momento nel quale andiamo a guardare la seconda casa, sulla quale vanno a gravare ancora l'IMU, perché l'IMU resta, e in più una maggiorazione IRPEF. Allora, sulla seconda casa si pagherà l'anno prossimo l'IMU, si pagherà la TRISE, quindi con la componente Tari, rifiuti, e Tasi, servizi, e poi se la seconda casa è sfitta ed è nel comune di residenza, cioè nel comune in cui si ha l'abitazione principale, si pagherà anche l'IRPEF sul 50% della rendita catastale dell'immobile, IRPEF che, come qualcuno forse ricorderà, era stata abolita invece con l'introduzione dell'IMU nel 2012. Quindi in questi casi veramente l'aggravio di prelievo, quindi sulle seconde abitazioni, soprattutto quelle sfitte, diciamo sono salve, no, per capirci, sono salve le case al mare in montagna perché sono al di fuori del comune di residenza. Però se uno ha 2, 3, 4 appartamenti nella città in cui vive, appartamenti che magari non è riuscito ad affittare o non ha affittato, non ha voluto affittare, in quel caso c'è anche una penalizzazione perché ritorna il 50% dell'IRPEF sulla rendita catastale. Chiudo con te con una piccola nota che invece è importante, perché il governo aveva promesso che nella legge di stabilità avrebbe fatto qualcosa per quel che riguarda gli immobili cosiddetti strumentali, ossia quella che abbiamo definito l'IMU per i capannoni molto grossolanamente, ma ci si riferisce naturalmente anche per esempio agli studi professionali, però insomma l'IMU sui luoghi di lavoro, ecco, sì, mettiamola così, e là sì, lì mazzate pure là. Sì, diciamo, è arrivata una cosa invero molto deludente, perché rispetto all'ipotesi iniziale di rendere deducibile l'IMU dal reddito d'impresa, quindi o dall'IRES o dall'IRPEF nel caso dei lavoratori che hanno, degli artigiani ad esempio che hanno l'IRPEF, il governo ha optato per una soluzione soft, quindi il prossimo, anzi già quest'anno nel 2013 sarà deducibile il 20% dell'IMU pagata, che si traduce in un beneficio minimo del, diciamo, uno a uno sconto sui redditi del 5,5% dell'IMU che ha pagato. Quindi, però anche in questi casi si dovranno pagare la Tari e la Tasi con la maggiorazione eventuale, e quindi i rincari nel 2014 si annunciano ancora una volta preoccupanti. Piuttosto potenti. Beh, ci chiede un ascoltatore via SMS al 349-238-6666, vale anche per i negozi? Guardi, le leggo la proiezione che ha fatto il Sole 24 Ore: metratura 50 metri, valore catastale 130.000 euro, paga 115 euro in più. Metratura 100, valore catastale 260.000 euro, sono 230 euro in più. Metratura 150, valore catastale 390.000 euro, sono 345 euro in più. Che dire, i numeri sono questi. Vedremo se poi in Senato qualcuno avrà la forza di modificare queste cifre, e soprattutto se si potranno modificare queste cifre a invarianza di saldi di bilancio, perché poi anche oggi, pochi minuti fa, è arrivata la raccomandazione anche al sottosegretario all'economia Baretta, ha detto chi vuole modifiche su questo fronte indichi chiaramente le coperture. Grazie Salvatore Padula. Naturalmente io ricordo che domani sul Sole 24 Ore, oltre alle decine di pagine sulla manovra che farete, certo, cioè, ci sono le scadenze fiscali, una guida dedicata alle novità sulle comunicazioni al fisco, quindi importante anche questo, che tra le altre cose c'è lo spesometro, ci sono mille cose, andate e compratene tutti. Posso dire una cosa? Prego. Sul sito abbiamo un giochino, un divertimento: dai un nome alla nuova Trise, perché insomma a nessuno piace questo acronimo, abbiamo pensato di fare un pochino questo gioco, quindi se uno va sul sito del Sole 24 Ore può indicare un nome alternativo, un acronimo alternativo. Esercitatevi dunque anche sul sito del Sole 24 Ore. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci ritroviamo tra un attimo con i mercati. Focus Economia. C'è poco da ridere e scherzare, ci dite, come si dice qua, si ride per non piangere. Ci chiedete anche se ci sarà la franchigia come per l'IMU. A quanto pare in questa prima stesura no, ma il governo starebbe pensando a reintrodurla. E ci chiedete se questo nuovo Trise varrà anche per le tende, visto che se andiamo avanti così sarà l'unica soluzione che rimane. Bene, passiamo a parlare di borsa. Paolo Paronetto, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, il dato sull'occupazione americana è arrivato oggi, lo abbiamo detto, è peggio di quanto non si attendessero gli analisti, e però questo dall'altra parte conforta, perché fa pensare che la Fed ritarderà il taglio, ulteriormente il taglio degli stimoli all'economia. Esattamente, questa è proprio la lettura, il dato è stato deludente, sono stati creati meno posti di lavoro di quanto previsto dagli analisti, però appunto il mercato paradossalmente, possiamo dire in un certo senso, legge in positivo questa notizia proprio perché si attende un ulteriore rinvio della nuova progressiva diminuzione degli acquisti di asset da parte della Federal Reserve. Quindi dopo il dato i listini hanno accelerato, Milano è arrivato a guadagnare oltre un punto percentuale, poi in chiusura si sono un po' ridotti guadagna, chiuso con un po' più di mezzo punto di guadagno Piazza Affari. Sì, un più 0,57 sul FTSE MIB, altrettanto sul FTSE All Share, bene anche il resto d'Europa, in particolare Francoforte più 0,9%, l'America è ferma più o meno là, più 0,37%, come vi abbiamo detto all'inizio sul Dow Jones, più 0,41% sullo Standard & Poor's 500. Storie di oggi, iniziamo da Pirelli, Paolo. Pirelli ha guadagnato il 4,6%, è stato uno dei migliori titoli tra le blue chip. La notizia è l'annuncio da parte del presidente Marco Tronchetti Provera di un avvio delle consultazioni tra gli azionisti aderenti al sindacato di blocco di Pirelli al fine di valutare l'eventuale scioglimento anticipato dell'accordo. Pirelli quindi diventerebbe di fatto una sorta di public company con Canfin principale azionista col 26%, ovviamente una notizia che il mercato apprezza dato che da un assetto societario più stabile senza scatole cinesi, patti di sindacato, il titolo infatti ne ha beneficiato facendo segnare una delle migliori prestazioni di oggi. La Fiat è andata bene, più 2,95%, vi abbiamo accennato all'inizio che ci sono indiscrezioni sull'accordo con Veba, il fondo pensione di Chrysler, per l'acquisto di Chrysler. Ne parleremo tra poco con il collega del Sole 24 Ore che si occupa di queste cose. Invece ti voglio portare su questa World Duty Free, che oggi in realtà è il titolo migliore sul FTSE MIB, più 7,62%. Sì, oggi è il titolo migliore e al momento non vengono segnalate notizie specifiche sul titolo. Ricordiamo che ieri Autogrill, che è la società da cui è stata scissa di fatto World Duty Free, aveva ottenuto una promozione da parte degli analisti di JP Morgan ed è stato di gran lunga il titolo migliore della giornata con un rialzo del 4%. World Duty Free continua il trend positivo fatto registrare di fatto, tranne qualche presa di beneficio dall'inizio delle quotazioni all'inizio del mese, e oggi è quasi arrivato a toccare gli 8 euro, ha chiuso a 7,9 euro per azione. Per quanto riguarda Mediaset, per restare sui titoli positivi, qua siamo su un guadagno del 3,25%, è il terzo titolo migliore sul listino principale. Sì, anche in questo caso è un trend che continua ormai da tempo, il titolo ha raggiunto i massimi dal maggio del 2011, sostenuto in queste settimane, in questi mesi, da una parte da questioni relative alla politica e dall'altra dai segnali che arrivano dal mercato della pubblicità che, senza essere positive, sono meno catastrofiche rispetto ai mesi precedenti, gli ultimi dati annunciati dal gruppo, e quindi il mercato di fatto premia il titolo. Molti investitori stanno tornando a prendere posizione su Mediaset. Veniamo sui titoli negativi di oggi, Paolo. Allora, ho visto ST Microelectronics lascia sul terreno l'1,69%. Ci sono motivazioni particolari per ST, così come per Telecom Italia che c'è dell'1,22%? Certo. Per quanto riguarda ST, diciamo che il titolo risente dell'effetto dei conti deludenti annunciati nella notte dal colosso americano Texas Instruments, che in questo momento a Wall Street sta perdendo l'1,9%, e tra l'altro ST, ricordiamo che è alla vigilia dei conti, saranno resi noti domattina, quindi il mercato aspetta di vedere i risultati di bilancio. Per quanto riguarda Telecom Italia, qui a pesare sono le indiscrezioni su un possibile congelamento dello scopo della rete. Secondo quanto riferito da molti giornali, l'amministratore delegato Marco Patuano potrebbe nel piano che presenterà il prossimo 7 novembre proprio prevedere al momento il congelamento dello scopo, e quindi il mercato in questo caso punisce il titolo Telecom con un meno 1,22%. Giù anche Fondiaria Sai dello 0,98%, Unicredit altrettanto, Saipem dello 0,89%, Enel di mezzo punto percentuale o poco più, altrettanto, Salvatore Ferragamo, Finmeccanica meno 0,43%. Buzzi Unicem ha guadagnato lo 0,45% dopo una seduta in realtà in negativo. Cosa è successo? Sì, per gran parte della giornata è stato tra i titoli peggiori, perché era stato colpito da un downgrade, da un taglio del giudizio da parte degli analisti del Credit Suisse, che hanno anche rivisto al ribasso le stime di redditività per il 2014 a causa della difficile ripresa economica in Russia e Messico, che sono due paesi che pesano per il 20% dei margini del gruppo. Sul finale, tuttavia, il titolo è riuscito a recuperare chiudendo in territorio positivo, appunto, quindi riuscendo a recuperare dopo una giornata quasi tutta in rosso. Allora, altro, Azimut meno 0,32, Parmalat meno 0,24, poco mossi, Mediolanum, A2A, Snam e Ubibanca che perdono tutti lo 0,1% circa, così come sono poco mossi Banco Popolare più 0,07, Diasorin più 0,09, bene Eni oggi che guadagna l'1,02%, Intesa San Paolo un punto percentuale circa, Mediobanca lo 0,94, Atlantia lo 0,92, Luxottica lo 0,85, Eterna lo 0,85%, Tenaris mezzo punto percentuale, positivi anche Monte dei Paschi più 1,3, così come Campari ed Exor e Generali, CNH più 1,77%, Prismian più 1,95%. Ultima nota, Paolo, e qua immagino siano prese di beneficio, parliamo della Roma che oggi ha perso l'8,6%. Sì, certamente, la questione è proprio quella delle prese di beneficio. Ricordiamo che la performance della società giallorossa in borsa dall'inizio del campionato è di un aumento a tre cifre, percentuale a tre cifre, quindi diciamo che è in attesa di vedere come andranno le prossime giornate per capire se gli infortuni che hanno colpito la squadra potranno rallentare nella marcia, molti investitori, alcuni almeno, stanno cercando di realizzare i guadagni fatti. Grazie a Paolo Paronetto di Radio Cori Il Sole 24 Ore, grazie anche ai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore come sempre per questi aggiornamenti di mercati. Allora, mi mancava forse ancora qualcosa tra i titoli quantomeno del listino principale del FTSE MIB. Più 1,25 Autogrill, Popolare Emilia Romagna più 1,26, mi sembra che sul resto ci siamo, Tenaris mezzo punto percentuale, Terna lo 0,85%, Buzzi Unicem l'abbiamo data più 0,45%, Euro a 1,37,76 contro dollaro. Allora, adesso ci fermiamo, c'è una pausa, come sempre c'è il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo. Abbiamo tre argomenti in ballo, e lo dico anche a chi ci sta chiedendo, dice, se la Fed ritarda il taglio degli stimoli monetari che sta dando che ha dato in questi mesi, sta continuando a dare, allora vuol dire che le cose vanno da schifo. Cercheremo di approfondire anche e di rispondere a questa domanda, per quanto brutale sia. Parleremo anche di Fiat e di Peugeot e naturalmente di Alitalia. A tra poco. Focus Economia. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il 349-238-6666 per i vostri sms per intervenire in diretta, se volete mi trovate anche su Twitter, Simone Spezia, cercate. Parliamo adesso di settore auto e vedrete come ci collegheremo al tema che tratteremo successivamente, che è quello di Alitalia. Però iniziamo dall'auto, ci sono due notizie in primo piano in queste ore. La prima riguarda Fiat. E riguarda la scalata al 100% di Chrysler da parte dell'azienda. Saluto Andrea Malan del Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo da qua e poi andremo al caso Peugeot, che si collega alla vicenda Alitalia, che collegheremo alla vicenda Alitalia, perché anche qua, secondo me, qualche problemino di aiuto di Stato potrebbe venire fuori. Se le indiscrezioni saranno confermate, se lo Stato francese deciderà di entrare col 15% nell'azienda. E però partiamo appunto da Fiat. Che cosa succede? Che c'è questo il VEBA, che è il Fondo Sanitario dei Lavoratori del settore auto, che ha il 41% di Chrysler, no? Esatto. Ed è ridotto. Ha pubblicato questo fondo il suo bilancio nei giorni scorsi e da questo bilancio emerge un buco, per così dire, di 3 miliardi di dollari. In realtà è un buco contabile, cioè il fondo ha delle attività con cui deve pagare le obbligazioni future, che sono appunto le prestazioni sanitarie ai pensionati. A fronte di attività per una decina di miliardi di dollari, le obbligazioni sono di 13 miliardi. Questa cosa non è immediatamente preoccupante per il fondo, nel senso che ricordiamo per esempio che la stessa Chrysler, che invece ai pensionati deve pagare le pensioni, ha a sua volta un buco contabile di 8-9 miliardi di dollari, aveva diciamo a fine giugno. Questo è tra virgolette normale negli Stati Uniti, cioè le aziende che sono responsabili delle pensioni lì, che sono quasi tutte private, accantonano una parte dei fondi, poi il valore degli asset che hanno accantonato tra l'altro varia anche con l'andamento dei tassi di interesse, quindi più sono alti i tassi più si riduce il valore delle passività, delle obbligazioni, e quindi migliora diciamo la loro situazione, e viceversa. È una situazione un po' complicata, diciamo che non ci sono rischi immediati né per la Chrysler né per il fondo VEBA. Certo che di fronte a questa scopertura diciamo di lungo periodo il fondo ha sicuramente un interesse a risolvere la questione vendendo, sappiamo, la quota alla Fiat, anche perché il grosso delle attività di questo fondo è rappresentato dalle azioni Chrysler, che valgono a contabilmente 3 miliardi e mezzo di dollari, e da un'obbligazione emessa dalla stessa Chrysler per un po' più di 4 miliardi. Quindi diciamo che dal punto di vista del buon investitore il fondo VEBA non farebbe bene a tenere l'80% delle proprie attività in una stessa società, cioè la Chrysler stessa. Certo, e quindi si potrebbero accelerare, per così dire, i tempi nei quali VEBA potrebbe vendere a Fiat a breve. Ti voglio portare sull'altro caso, questa è una questione che vedremo naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, tanto di questa vicenda appunto dell'acquisto di Fiat, della salita al 100%, se ne continua a parlare, torneremo a parlarne poi quando avremo alla fine le notizie vere, ecco, per così dire. Invece la vicenda di Peugeot Citroën, Andrea, è molto interessante per una serie di aspetti. Innanzitutto per l'approvazione da parte dei sindacati di un piano molto tosto per il personale dell'azienda, no? Beh sì, diciamo che hanno approvato diciamo 4 sindacati su 6 per ora un piano che per i prossimi 3 anni, fino al 2016, prevede di fatto un blocco dei salari, una serie di misure di flessibilità nell'utilizzo della manodopera e, ricordiamo, si aggiunge questo piano a una serie di tagli che la Peugeot aveva già annunciato nei 2 anni precedenti e che prevedono, tra l'altro, proprio da venerdì questo, la fine della produzione di auto in uno degli stabilimenti storici del gruppo, che è a Dolmet, alle porte di Parigi. Quindi diciamo che Peugeot sta cercando, con tutti i mezzi, compreso in questo caso l'accordo dei sindacati, di ridurre i costi per colmare quello che nel suo caso è un buco molto reale, che ha visto l'anno scorso i conti in rosso con un consumo di liquidità di 3 miliardi di euro, che l'azienda ha l'obiettivo di ridurre a 1,5 miliardi quest'anno, ma insomma Peugeot, che ha fatto un aumento di capitale da 1 miliardo l'anno scorso, di fatto lo ha già bruciato e ha bisogno, oltre che dell'aiuto dei sindacati e dei lavoratori, anche di capitali freschi. Ecco, e qui veniamo, immagino, esatto, e qua veniamo al tema, no? Perché si parla, la cifra che circola sono intorno ai 3 miliardi. In questi 3 miliardi potrebbe esserci una parte di sottoscrizione da parte di un partner cinese, Dongfeng, che in realtà già lavora con Peugeot Citroën in Cina, e lo Stato, appunto, potrebbe entrare addirittura con un 15%. Allora, ricordiamo due cose: gli azionisti principali della Peugeot sono naturalmente la famiglia Peugeot, che ha un po' meno del 30% del capitale, ma di più in termini di diritti di voto, e la General Motors, che è entrata l'anno scorso con l'aumento di capitale. Ora, la famiglia non ha i soldi da mettere in più, la General Motors, che eventualmente li avrebbe, non ha intenzione, pare, di mettere ulteriori fondi in un'azienda traballante. E quindi i francesi sono costretti, diciamo, a rivolgersi al socio cinese, che quasi per definizione potremmo dire ha parecchi soldi. Tra l'altro, attenzione, questa Dongfeng è un'azienda statale anche lei, seppure cinese. L'intervento dello Stato francese in questo caso, si è parlato appunto di una metà di questo aumento di capitale sottoscritta da Parigi, avrebbe il senso di mantenere quella che potremmo definire con una battuta la francesità della società a fronte dell'ingresso di un socio cinese forte e del ridimensionamento della famiglia. Certo che a Bruxelles un'operazione di questo genere potrebbe non piacere, direi. Certo, diciamo che tutto si gioca un po' sulla capacità di gestire anche diplomaticamente questi interventi. Possiamo ricordare che 3-4 anni fa, se non ricordo male, al culmine della crisi finanziaria, Parigi intervenne con un prestito molto grosso, sia Peugeot che Renault, nel momento in cui la liquidità delle banche si era un po' prosciugata. Anche lì ci furono polemiche, il prestito lì poi fu restituito abbastanza rapidamente, nel giro di un anno e mezzo, e le polemiche furono assopite. Certamente bisogna dire che il governo francese, che ha tuttora un'industria automobilistica più consistente di quella italiana, è già azionista della Renault e non esiterebbe a intervenire in maniera pesante qualora per Peugeot i rischi diventassero veramente grossi. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo io ti saluto, Andrea, tornerai ad aggiornarci ovviamente su questi temi. Ci prendiamo una pausa per la viabilità e poi ritorniamo a parlare di aiuti di Stato, perché l'accusa che viene lanciata questa volta un po' più ufficialmente da International Airlines Group, che è il gruppo a cui fanno capo le compagnie Iberia e British Airways, per quanto riguarda l'operazione Alitalia. Tra un attimo. Focus Economia. Ed eccoci dunque a parlare di Alitalia. Come si diceva, International Airlines Group, a cui fanno capo Iberia e British Airways, sta valutando addirittura di ricorrere alle vie legali sul caso Alitalia per opporsi all'intervento delle Poste, in questo caso, che partecipano all'aumento di capitale con 75 milioni di euro. Dice International Airlines Group che è un palese aiuto di Stato. Non è il solo scoglio per Alitalia, ce ne sarebbero mille, però diciamo dei più recenti ci sono questo e il fatto che non si ha la certezza che Air France partecipi a questo aumento di capitale. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, lo stato dell'arte è questo: British Airways aveva già promesso battaglia, o fatto intendere che avrebbe dato battaglia su questo tema, no? aveva immediatamente contestato l'intervento come una forma di aiuto pubblico e oggi, diciamo, coerentemente ha ripetuto, annunciando anche che è pronta a fare un ricorso formale, legale. Ma che interesse ha in particolare British Airways da questo punto di vista? Perché questo mi interessa, come dire, dal punto di vista delle rotte, dal punto di vista industriale, che interesse ha? L'interesse principale, British Airways è una delle grandi compagnie, delle tre grandi compagnie europee concorrenti, quindi soprattutto di Air France. L'Italia per British Airways è una piccola compagnia, ma il mercato italiano, se all'Italia dovesse, per dire, saltare e quindi essere rimesso in gioco tutti i diritti di traffico che ha, degli slot eccetera, potrebbe presentare degli spazi in più per altri concorrenti, compreso British Airways. Poi non è solo una questione delle rotte molto limitate dell'Italia verso Londra. Naturalmente. E poi c'è quest'altra questione, la questione che riguarda appunto l'ipotesi che Air France, in realtà, all'aumento di capitale varato dall'Italia, pur avendo dato il suo ok, no, all'interno del consiglio di amministrazione, forse anche in assemblea, potrebbe non partecipare. Air France ha votato a favore dell'aumento di capitale sia nel consiglio di amministrazione dell'Alitalia sia nell'assemblea degli azionisti di una settimana fa. Questo non significa essere impegnati a versarlo, come la stessa Air France ha fatto subito notare. Cosa vuole Air France allora? C'è un mese di tempo, anzi un po' meno, ormai 3 settimane, per il metà novembre, quando scadrà il termine per la sottoscrizione dei 300 milioni, che è l'importo massimo. Air France dovrebbe mettere la sua quota ai 75 milioni, coincide con la quota delle Poste peraltro. E ha chiesto un piano industriale, cioè con tagli, non ha detto quanto, ma si parla di tagli importanti che Air France vorrebbe, e ha chiesto anche una forma di rinegoziazione del debito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il debito finanziario, ma non solo, che è sulle spalle dell'Italia, in tutto sono 2 miliardi di euro, circa la metà del debito finanziario, secondo Air France dovrebbe essere o riscadenzato o ristrutturato con un accordo tra la compagnia e i creditori, principalmente le banche. Questo è un punto però che non credo, credo che difficilmente potrà realizzarsi nel tempo ancora a disposizione, nelle 3 settimane. E quindi fammi capire, è probabile che alla fine Air France non ci stia l'aumento di capitale, diluisca la sua quota? Probabile non lo so, è possibile, vedo in questa posizione almeno anche un atteggiamento tattico, essendoci una trattativa, un negoziato in corso, non scopro le sue carte fino all'ultimo. Quindi Air France non vuole scoprire le sue carte fino all'ultimo. Mi spieghi un'ultima cosa, Gianni, qual è l'obiettivo alla fine di Air France, se ha ancora un obiettivo su Alitalia? Credo che l'obiettivo sia chiaro dall'inizio: prendere il controllo dell'Alitalia, come ha cercato di fare. C'era un'offerta formale di acquisto nel 2008, poi sappiamo com'è andata, comunque diciamo fu respinta, no? C'è una trattativa. Quindi quell'obiettivo è rimasto intatto, perché l'Italia rappresenta, tenendo molte posizioni, presidi, slot aeroportuali, ha ancora una rete commerciale di una certa consistenza, comunque la porta principale di accesso al mercato italiano, anche se non è l'unica. E quindi il mercato italiano è il quarto mercato europeo nel trasporto aereo, per Air France rappresenta certamente un boccone interessante. Forse Air France non è disposta, dico forse, ad ogni prezzo a conquistarlo, e per questo cioè forse France credo voglia anche capire, siccome di fatto il negoziato per questa operazione poi non si è svolto con loro, ma è stata una cosa all'interno del governo italiano con i soci privati, con la Nino, Banca Intesa, gli altri soci, Benetton, con Atlantia, gli altri soci dell'Alitalia, vuole capire anche quale può essere il punto d'arrivo, perché se no continuare a finanziare come socio importante il 25% una compagnia che probabilmente continuerà ancora a perdere soldi, credo che questo sicuramente non è uno dei suoi obiettivi. Non è uno degli obiettivi. Grazie Gianni Dragoni, buonasera, grazie per essere stato con noi. Noi abbiamo un paio di minuti in chiusura, cambiamo argomento e chiudiamo parlando di America. Dopo effetto giorno si ricostituisce una coppia anche a Focus Economia. Mario Platero, buonasera. Eccoci Simone. Eccoci qua. Allora, molto brevemente Mario, perché abbiamo un paio di minuti. Oggi i dati sulla disoccupazione americana hanno fatto pensare ai mercati che la Fed possa ritardare ulteriormente il tapering, ossia il taglio degli stimoli monetari che la Fed sta fornendo all'economia ormai da mesi. 85 miliardi di dollari al mese più o meno in riacquisto di titoli di Stato americani e di obbligazioni garantite da mutui immobiliari. È effettivamente così? Sì, beh, guarda, il punto è questo, vedi Simone, che abbiamo avuto un dato sul tasso di occupazione al di sotto delle aspettative, 180.000 circa ci si aspettava, sono arrivati 147-148.000, quindi 40.000 occupati in meno a settembre di quello che ci si aspettava. E dunque la Fed è molto preoccupata sul fronte occupazione. E questo cosa significa? Che avevamo già un'economia che si stava un po' indebolendo o comunque non teneva il passo con il ritmo che si sarebbe voluto entrando in ottobre, nel mese in cui c'è stata la chiusura del governo, quindi significa che ottobre non sarà un buon mese. A questo punto si esclude che la Fed alle prossime riunioni del 29 e del 30 di ottobre possa decidere di ridurre gli acquisti, quegli acquisti di 85 miliardi al mese di cui tu parlavi, ma qualcuno dice che forse non lo farà neanche a dicembre, forse non lo farà neppure alle riunioni di inizio d'anno, proprio perché se l'economia è più debole di quel che ci si aspetta sul fronte occupazione, queste manovre di acquisto che sono in appoggio a una politica monetaria che tiene i tassi di interesse vicino allo zero, continuerà come era nei programmi della Fed fino a giugno dell'anno prossimo. Grazie Mario, avrei parlato un po' di più con te perché volevo anche capire poi in realtà che segnali ci danno tutto questo anche sullo stato dell'economia americana, però purtroppo dobbiamo chiudere. Io ringrazio Pietro Lacorte in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. Se sentite solo Focus Economia ci sentiamo domani dopo le 17, altrimenti mi risentite con effetto giorno domani alle 13. Radio 24. La passione si sente.